Letture di Radio 24. La grande casa, titolo del terzo libro di Nada, è il luogo dove si incrociano le storie di tre donne molto diverse tra loro. Emilia, che ha coronato il suo sogno di diventare una ballerina di successo, Gemma, una cantante che, come Nada, ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni, ed Elke Richter, una signora tedesca che, per dimenticare le proprie sofferenze, decide di trasferirsi in Italia trasformando una vecchia fornace in una grande casa aperta a tutti quelli che amano il silenzio. Elke, a 36 anni, si ammalò. Una notte, nel delirio di una febbre altissima, capì che qualcosa di grave le stava succedendo. Tremava, grondava sudore, le forze l'avevano abbandonata. La mattina la portarono d'urgenza al vicino ospedale di Berkenburg e dopo molte ricerche le diagnosticarono un cancro. Non disse niente a nessuno, né ai suoi genitori, che stavano diventando vecchi, né tantomeno a Peter, che studiava con profitto ed era ormai un ragazzo. Da sola cominciò a girare tutti gli ospedali d'Europa. Gli illustri medici non le davano molte speranze, finché in una clinica di Parigi un ricercatore le prospettò una cura sperimentale. Qualcosa da dentro le diceva che quella era la strada giusta. Si ricordò di uno strano sogno fatto qualche mese prima. Si trovava nel terminal di una stazione sconosciuta. All'improvviso tra la folla riconobbe Giacinto, che con un biglietto in mano urlava «Parigi, Parigi, dobbiamo andare a Parigi!» Nessuno si accorse mai di niente. Continuò a lavorare come sempre. Una volta al mese si allontanava per qualche giorno per farsi curare, dicendo a tutti di aver scoperto il piacere di viaggiare. E dopo un lungo, interminabile inverno, in primavera, Elke aveva sconfitto il male. Ma la sorte fu ancora più crudele con lei. 2 anni dopo, Peter, all'età di 18 anni, andò a Boston per una borsa di studio. Al ritorno, l'aereo su cui viaggiava precipitò nell'Oceano Atlantico. Elke lo seppe dalla televisione. Stava guardando un film e alla fine, nei titoli del telegiornale, dettero la notizia. Nessun superstite. Con una forza disumana, pietrificò il dolore che stava invadendo ogni cellula del suo corpo. Se lo avesse assecondato, se lo avesse lasciato libero, si sarebbe uccisa. Allora, come un automa, si alzò dalla poltrona, prenotò un volo per Androversa, preparò le valigie, chiamò un taxi, chiuse la porta di casa, scese in strada e senza guardarsi indietro se ne andò decisa a non tornare mai più. E non tornò mai più. Elke si stabilì a Corrielba. Prese in affitto un appartamento nel nuovissimo Cosmo Hotel e tutti i giorni si faceva accompagnare a Ortolano per seguire i lavori dell'antica fornace che, con lei presente, in poco più di un anno terminarono. A Corrielba nessuno parlava della morte di Peter, nessuno osava dire qualcosa di quel dolore impenetrabile che Elke proteggeva gelosamente. Era come se ci fosse stato un accordo fra lei e quella gente. La rispettavano, le volevano bene ed erano contenti di rivederla fra loro dopo tanto tempo. La signora Richter, la chiamavano così. Anche da giovane, prima che sposasse Giacinto, era la signorina Richter, come se non avesse avuto un nome. Il giorno della fine dei lavori dell'antica fornace, Elke decise di festeggiare il ritorno a Ortolano. Fece arrivare da Androversa tutto ciò che occorreva per una grande festa, con cuochi, camerieri e una piccola orchestra. Era la fine dell'estate e una luna piena illuminava a giorno la pianura di Ortolano. Su per la strada sterrata, costeggiata dai vecchi ulivi, cominciò già dal pomeriggio una processione di persone. Anche gli animali della sconfinata pianura dell'altopiano di Ortolano parteciparono alla festa. Gli uccelli per primi si radunarono sugli alberi e così intere famiglie di cinghiali e di caprioli si fermarono poco prima del giardino, ma anche lepri, istrici, tassi, ricci, fagiani, cicale, topi, ragni, lucertole e volpi. Stavano tutti in silenzio, nascosti nell'erba alta mossa da una leggera brezza marina. La signora Richter si guardava intorno. Non era più abituata a tutta quella gente che le sorrideva, la salutava. Le vennero in mente le vecchie feste del paese quando era ragazza e si lasciò andare all'emozione. Quanti ricordi la legavano a quelle persone a Ortolano e come allora pensò che l'antica fornace era un posto magico. Lì la sua vita aveva avuto un senso ed era lì che avrebbe continuato ad averlo. L'orchestrina cominciò a suonare. Il sindaco di Corrielba la invitò a ballare e tra i brindisi e le risate dettero il via alle danze. Ballarono, mangiarono e cantarono, bevendo fino a tardi, e quando il sindaco decise che era arrivato il momento per tutti di salutare, fece il suo discorso. «Sono sicuro di parlare a nome di tutti gli abitanti di Corrielba. Quando dico che siamo felici e onorati di accogliere tra noi la signora Richter, una donna forte, semplice e intelligente, che nella vita ha dimostrato di seguire i valori più veri. Ama la terra, la nostra terra, e ce lo ha dimostrato ristrutturando l'antica fornace qui, nella difficile e abbandonata pianura di Ortolano. E sono ancora più onorato di chiamarla Corielbese, e sarò lieto di servirla insieme a voi quando ne avrà bisogno. E indicando con la mano finì dicendo: in questa grande casa. Alle parole del sindaco era calato un profondo silenzio. Alla fine venne interrotto dalle voci stridule di tutti gli animali lì intorno, coperte dagli applausi dei corielbesi. La signora Richter pensò di essere fortunata. Aveva amato Giacinto, aveva avuto Peter, e ora tutte quelle persone le volevano bene. Sentì che poteva continuare a vivere per loro. Seguendo i suoi pensieri, si era persa quasi interamente il bel discorso, ma le ultime parole del sindaco l'avevano colpita profondamente quando aveva indicato la vecchia villa come la grande casa. La grande casa. La grande casa. Per l'intera notte quelle parole le rimasero in testa e la mattina dopo, quando si alzò, decise che tutta la tenuta di Ortolano si sarebbe chiamata la grande casa. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Nada Malanima, La Grande Casa. Bompiani, 140 pagine, 15 euro. Nel mondo ci sono 27 milioni di schiavi. Lo stabilisce l'ultimo rapporto sul traffico degli esseri umani firmato da Hillary Clinton. Il record in Asia, dove quasi 12 milioni di persone sono segregate, costrette a lavorare o a prostituirsi. La fotografia del pianeta, contenuta nel rapporto sul traffico degli esseri umani, redatto dal Dipartimento di Stato e firmato da Hillary Clinton, precipita in una dimensione dei rapporti internazionali pressoché inedita. Le regioni geopolitiche sono ritagliate sulla forza delle reti e del traffico di uomini, donne e bambini. Dai confini dell'Afghanistan a quelli della Cina e dell'Indonesia si estende il mercato più grande, con 11,7 milioni di vittime, seguito dall'Africa con 3,7 milioni, l'America centro-meridionale con 1,8 milioni, la Russia con 1,6 milioni e l'area transatlantica USA-Europa occidentale con 1,5 milioni, mentre l'Australia è l'unica a poter vantare l'assenza di luoghi dove i trafficanti hanno totale potere sui sottomessi. A fronte di questo sterminato giacimento di vite, che alimenta il crimine organizzato, vi sono i singoli individui che le polizie nazionali, giorno dopo giorno, riescono a liberare. Il rapporto riconosce le difficoltà di quest'opera, evidenziata da numeri esigui e da una gerarchia geografica rovesciata, perché il numero maggiore di liberazione di schiavi si registra nell'area transatlantica, che invece è l'ultima per quantità di sottomessi. In Europa le vittime identificate nell'ultimo anno sono state 10.185 e nell'emisfero occidentale 9.014, ma dove gli schiavi sono di più, le liberazioni sono di meno. In Estremo Oriente 8.454, in Africa 8.900 e nel mondo arabo musulmano appena 1.831. I numeri di condanne di trafficanti in queste regioni sono altrettanto esigui. Basti pensare che in tutto il Maghreb Medio Oriente sono state solo 60. I dati in arrivo da ogni capitale vengono analizzati da una task force che classifica le vittime per categorie. C'è chi è schiavizzato per fini sessuali, anche se minore, per i lavori forzati, manodopera infantile, formazione di reparti di bambini soldati o per essere trattato da dipendente domestico senza diritti. La conclusione del rapporto dell'amministrazione Obama è infatti che la piaga della schiavitù non ha confini. In Occidente esistono almeno delle leggi per combatterla, mentre all'estremo opposto vi sono 16 nazioni che non rispettano gli standard minimi di lotta al traffico e che non stanno facendo sforzi significativi per raggiungerli. Ecco quali sono. Algeria, Libia, Siria, Iran, Arabia Saudita, Yemen, Sudan, Eritrea, Repubblica Centrafricana, Congo, Zimbabwe, Madagascar, Nord Corea, Nuova Papua Guinea e Cuba. C'è poi un secondo gruppo di 32 nazioni sotto osservazione perché non danno informazioni e registrano numeri alti di vittime, limitandosi a promettere azioni future per ridurle. Tra loro spiccano Cina e Russia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Molinari, Gli USA, nel mondo 27 milioni di schiavi, da La Stampa del 21 giugno.